Ciao, sono Floriano, chiamo da Busto Arsizio in provincia di Varese e sono un custode di auto sottoposte a sequestro giudiziario. Desidererei che l'onorevole Laracomi passasse una notte di fidanzamento con me, non esclusivamente per questioni sessuali, ma per parlare un po' di tutto e magari anche poi concludere con una vera amicizia che possa sconfinare anche oltre la notte che propongo in questa mia esternazione. Incrocio le dita e aspetto ansioso che mi arrivi risposta positiva dall'onorevole.